Le Marche Online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Un programma a cura di Luca Lorenzetti. Buona giornata da Luca Lorenzetti in studio per questa seconda puntata delle Marche Online. Dunque, oggi parliamo di aziende e del loro rapporto con lo strumento internet e in generale con le nuove tecnologie della comunicazione. Abbiamo in collegamento telefonico Ferdinando Blefari dell'agenzia di comunicazione Camera Work di Iesi e promotore del monitoraggio ISNET di cui abbiamo appena parlato. Dottor Blefari, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, dunque senta, abbiamo appunto presentato nel corso della puntata ISNET, potremo sentire appunto dalla sua voce di che cosa si tratta e quali sono le novità della nuova edizione. Perfetto, intanto grazie alla vostra emittente sempre attenta a problemi così attuali all'interno della nostra regione. ISNET è nata nel 97 e aveva un obiettivo che si è andato consolidando col tempo, che era quello di rilevare l'introduzione e l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione e di informazione all'interno delle imprese, degli enti e delle banche della Regione Marche. Come dicevo, l'analisi, il monitoraggio è annuale, è nato nel 97, ci ha visto in partnership con degli istituti e degli enti di tutto rilievo della Regione, tant'è che uno dei partner storici di ISNET è l'Università di Ancona attraverso la Facoltà di Economia con il diploma di amministrazione delle imprese e ingegneria con il Dipartimento di Informatica. Ovviamente con la collaborazione di una rete con un provider regionale abbiamo potuto fare questa attività di rilevazione. Il target è del tutto rilevante perché se fate una considerazione rispetto ad altre esperienze di tipo nazionale, noi lavoriamo circa con 400 teste colpite e questionari compilati ogni anno. L'evento di quest'anno, quindi l'indagine 99, sarà presentata poco prima di Natale, speriamo di fare una cosa gradita al mondo dell'economia e della ricerca regionale presso la Regione Marche, che quest'anno ha addirittura dato il patrocinio a ISNET, Internet Service Network. Benissimo, quindi se ci può illustrare quali sono le novità che questa edizione porta rispetto a quella dello scorso anno e quindi in definitiva quanto e in che modo le aziende marchigiane utilizzano Internet? Sì, intanto una novità che è la novità di quest'anno. Noi tradizionalmente effettuavamo il monitoraggio su due tipologie di utenze, una i cosiddetti collegati alla rete, dove volevamo rilevare la tipologia di utilizzo, quali erano i vantaggi e gli svantaggi, eccetera, e poi una seconda categoria che era quella dei non collegati alla rete, dove volevamo in pratica rilevare le motivazioni al non collegamento ed eventuali progetti futuri. Nel 99 abbiamo deciso, ma anche per un'analisi dei dati che sono rientrati, di eliminare la categoria dei non collegati alla rete per fare una battuta e magari dire in due parole, insomma le Marche sono tutte collegate, adesso sì. Io evidentemente il campione è rappresentativo per indagini di questo tipo, certo. Ma sicuramente non può essere rappresentativo per l'intero scibile della Regione Marche per quanto riguarda le banche, gli enti e le imprese, però indubbiamente questo è un primo segnale forte, le aziende, gli enti e le banche della Regione Marche sono quasi tutte collegate e comunque quelle non collegate intendono farlo veramente ormai nel giro di pochissimo tempo. Questo è il primo dato importante. Sì. Quindi vuol dire anche che l'intero campione è un campione molto più interessante per analizzare la tipologia del soggetto che la utilizza e il tipo di attività che vengono effettuate con l'Information and Communication Technology. Due dati per non anticipare, però per la vostra emittente sicuramente lo faremo, ma vi invito formalmente per il 22 dicembre quando presenteremo i dati ufficialmente. Senz'altro. Le innovazioni di quest'anno sono sicuramente, i dati più rilevanti di quest'anno sono questi. L'utilizzo è cresciuto negli ultimi due mesi in maniera sproporzionata per quanto riguarda l'utilizzo della mail e l'utilizzo chiaramente dei sistemi interattivi appoggiati sui siti web. Sì. Questo è il primo dato veramente importante. Il secondo, sicuramente anche questo da tenere sotto controllo, è che c'è una certa attenzione ai carrier non cosiddetti access provider, ma coloro che si si occupano di content provider, quindi cercare insomma di riempire la rete, cioè con, spiegato un po', con contenuti, insomma, ecco. Quindi le aziende intendono utilizzare in maniera sicuramente più proficua, sì, le grandi potenzialità messe a disposizione. E senta, dottor Blefari, se è un dato disponibile, se posso chiederlo, a che punto sono le Marche rispetto al panorama italiano per quanto riguarda la penetrazione delle tecnologie internet, sia a livello aziendale che privato? Allora, purtroppo parliamo di qualcosa che è veramente difficile da misurare. Diciamo che i dati in nostro possesso, la nostra indagine si appoggia ad una tipologia di rilevazione che è molto simile a quelle che vengono effettuate a livello nazionale. Non abbiamo chiaramente un parametro che ci permette di fare un raffronto esatto. Sì. Comunque, insomma, abbiamo dei valori apparentemente più alti, sì, della media, della media nazionale. La nostra regione, dobbiamo ricordare, che ha fatto degli investimenti importanti, tra l'altro supportati anche dall'ente regione, per cercare di cablare, di far nascere reti civiche, di portare l'ente pubblico forse come trainer ancora prima delle imprese, soprattutto le medie e piccole imprese, all'utilizzo di queste tecnologie. Quindi noi siamo un pochino più avanti, però ripeto, sono dati purtroppo a volte anche empirici, se vogliamo, sì, non abbiamo un criterio oggettivo e scientificamente attendibile. Benissimo. Però sicuramente siamo molto avanti rispetto alle medie nazionali, almeno per quanto riguarda quelle che sono le domande tradizionali, le domande classiche. Certo, benissimo, questo è un dato decisamente incoraggiante. Ringraziamo Ferdinando Blefari per la sua disponibilità. Salutiamo Blefari e tutto lo staff della Camera Work. Grazie mille, grazie a voi. A risentirci. A presto, auguroni e buon lavoro con la vostra ottima trasmissione. Grazie altrettanto. Arrivederci. Avete ascoltato Le Marche Online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Musiche di Giacomo Caliolo, Raffaele Mazzei e Piero Trofa. Consulenza musicale Raffaele Mazzei. Un programma a cura di Luca Lorenzetti.